Niente d'umano all'orizzonte. Sordide manie moderne rendono tutti sordi. L'assenza di empatia ci rende disinvolti, non coinvolti. Come pallidi automi dai visi smorti. Ma ci sarà sempre chi ci venderà del fumo tossico, avvisaglie di un raggiro. Come molecole di un ossido che ci corrode finché c'è respiro. È logico caderci dentro e lo descrivo. Schivo, propositivo di istante. Vedo gli effetti di un'intrusione persistente. Quel che si sente, le voci più asfissianti circolloquiscono ogni pensiero divergente. Una tortura ci connette con l'insulso. Sale l'impulso di ruggire come un Lannister. Ho bei ricordi che ho praticamente espulso. Quindi l'unico bei di questi tempi è stile Carpenter. L'interferenza non si spiega, tutti intorno a me il contesto nega. Ma come faccio a trasmettere segni nitidi? Se prestare attenzione, lascia lividi. Ma dentro me c'è un mondo che non limiti. Non ho invisibili trame con cui coprire le mie iridi. Mi sento smarrito come sparito dentro questi blocchi liquidi. Braccato da ignoti militi. Attenzione, intromissione, già una va scoperta. Nube torbida che avanza pure troppo in fretta. Ho tenebrato da miasmi fetidi. Se ci medito, ho i segni addosso come felidi. Che cos'è che sveglia le coscienze? Un elisir senza ingredienti servito su un piatto vuoto. L'interferenza si rimette in moto. Schiaccio di neurone, cazzo tutto, non si mostra più devoto. Il tempo si perde, tardivo carico di questa furia. Sandinismo dei sensi come in Honduras. Quello che uccide la soppressione del senso della misura. Un cancro odierno senza cura. Perché se tutto è corrotto e perverso, non si afferma l'antifunzionale inutile perché è diverso. Luride armonie che da st'unisono di intenti pongono punti in chiusura d'accenti. Le crepe aperte insanabili, impresse a fuoco su lobi frontali labili. Il mito della perfezione miete vittime silenti, travolti i suoi denti, privi di intenti. A suoi fatti da foschi frangenti vi maledica un dio minore che ignori i vostri lamenti. Ma come lametti, lametti, sono storie vecchie come il mondo che bloccano gli insorgenti. L'interferenza agisce in sordina, una valanga in frequenza e l'onda è cortina. Passa indenne ogni mio filtro, si ripercuote in una scossa continua. Direi che l'onda d'urto attacca e non recede. Scombussola piani, lancia segnali quando eccede. Ma va tenuta al centro di quell'attenzione che riecheggia due minuti e non lascia che un'impressione. Attenzione, intromissione, già ne va scoperta. Nube torbida che avanza pure troppo in fretta. Ho tenebrato da miasmi fetidi. Se ci medito, ho i segni addosso come felidi. Che cos'è che sveglia le coscienze? Un elisir senza ingredienti servito su un piatto vuoto. L'interferenza si rimette in moto. Schiaccio di neurone, cazzo tutto, non si mostra più devoto.